Buongiorno, il programma prevede di parlarvi di dibattiti politici, di faziosità, di manifesti pubblicitari, di segregazioni e, se il tempo non ci si attiranno, come peraltro sembra, di ozio politico.